Basta. Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. E in un tempo in cui tutto diventa digitale, anche gli incontri, gli eventi, le fiere, i concerti hanno dovuto fare questo cambiamento. È venuto a parlarcene negli studi di Radio Next Roberto Silva Coronel, che è fondatore di marketing multimedia, ma anche il fondatore di una nuova startup innovativa che si chiama, Roberto? Liveforum.space. Buongiorno a tutti. Buongiorno Roberto. Allora, cosa fa Liveforum.space? Ma di fatto è una nuova location digitale creata su internet che permette di ospitare eventi di qualsiasi natura, per lo più business ovviamente, che sono quelli che in questo periodo stanno soffrendo maggiormente il lockdown e la chiusura delle location. Ma voi allora intanto avete già utilizzato questa piattaforma per fare il Netcon Forum, per fare altri eventi negli ultimi tempi. Che cosa è cambiato nella fruizione degli eventi, sia da un punto di vista di chi partecipa che da un punto di vista delle aziende? Sicuramente non possiamo più avere contatti sociali, tutto deve avvenire in spazi virtuali dove di fatto le persone però hanno la voglia di creare relazioni, perché quello che noi abbiamo creato con questa nostra piattaforma è un nuovo spazio per generare relazioni di business o di relazioni sociali tra i vari partecipanti. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo di fatto unito diverse tecnologie, le più conosciute che sono quelle di webinar, quelle che ormai da tempo stiamo utilizzando, che sono le meeting one to one, le video meeting one to one, e quindi abbiamo creato tutto uno spazio che ci permette, tramite delle mappe espositive, di incontrare, di vedere degli stand, negli stand incontrare i dipendenti, fare degli incontri one to one e quindi generare uno spazio completamente nuovo dove di fatto possono accadere degli eventi che prima erano reali e che oggi accadono nel mondo virtuale. Qual è stata la risposta delle aziende e dei partecipanti di fronte a questo cambiamento? Il primo esperimento che abbiamo fatto è stato un grandissimo successo, perché 12.000 partecipanti si sono attivati fino dalle 9 del mattino all'apertura dei cancelli. E ciò che era bello è che sono entrati sicuramente in maniera molto ordinata e silenziosa, nel senso che in un attimo hanno popolato la nostra piattaforma. Ma quindi, scusami, secondo te le fiere come quelle che abbiamo conosciuto, anche quelle leisure, penso a fiere non solo relative al digitale, ma di tutti i tipi, hanno segnato il passo? Sicuramente quello che abbiamo assistito in questi ultimi 20 anni è un costo crescente di questi spazi, per cui ultimamente stava diventando veramente abbastanza proibitivo organizzare eventi reali. Noi abbiamo calcolato che mediamente su un evento business ogni partecipante ci costava dai 60 agli 80 euro a partecipante. E questi costi è sempre più difficile coprirli con sponsorizzazioni, con biglietti a pagamento, che in Italia è un'usanza poco diffusa. Quindi di fatto quello che sta succedendo nell'ambiente digitale invece è che i partecipanti costano un decimo in termini di costo proprio di partecipazione per un organizzatore di un evento. Quindi io penso che in futuro gli eventi saranno sempre più ibridi, un'ibridicità dove nell'ambiente reale si sarà più selettivi, si lavorerà sempre più con inviti, nell'evento digitale invece ovviamente si proseguirà la divulgazione degli argomenti che vengono trattati nell'ambiente reale, ma di fatto ci permetterà di ospitare moltitudini di persone e il costo è ovviamente marginale, e quindi questo costo marginale di fatto incrementa le potenzialità di contatto degli espositori o degli sponsor, ma di fatto riduce il costo operativo di un organizzatore di eventi. Quindi se da una parte però io rinuncio, o quantomeno come azienda risparmio, nella creazione dello stand, nella creazione, nel portare i macchinari in loco e via dicendo, però poi dall'altra parte dovrò investire nella produzione di contenuti, quindi avrò bisogno di sviluppare 3D piuttosto che avrò bisogno di sviluppare video che dovranno essere di una certa qualità, perché sennò altrimenti le persone scappano. Effettivamente è un delta positivo anche per l'azienda, o alla fine, come dire, il più o meno il costo rimane lo stesso? Ma allora, diciamo che oggi qualsiasi azienda è sempre più instradata nel produrre contenuti di qualità, quindi molte aziende oggi hanno già, nell'ambito dei lanci di prodotto, hanno già dei contenuti digitali molto sofisticati, eccetera. Certo, ci sono alcuni settori che magari sono un pochino più indietro, ma oggi i costi per produrre anche questi materiali sono scesi particolarmente. Quindi io penso che questa cosa qua, in effetti, le aziende avranno un saving nella partecipazione degli eventi. Teniamo conto anche di tutto quello che è il costo proprio della logistica degli eventi, quindi gli eventi saranno anche più green, molte meno persone dovranno spostarsi, dovranno pernottare fuori. Chiaro, questo genera anche dall'altra parte il lato positivo, che è gli indotti positivi sulle città dove avvengono gli eventi, quindi è chiaro che tutte le cose si possono vedere con un occhio positivo, un occhio negativo. Certo, cambierà proprio il mondo industriale, cioè il mondo quantomeno dell'hospitality da evento, perché ci sono delle location che sono nate o che vivono proprio grazie agli eventi, e se questi eventi diventano completamente virtuali cambia proprio il modo, bisogna proprio reingegnerizzare questi luoghi. Ma io penso che sarà una trasformazione progressiva, come al solito non abbiamo, se nel digitale esiste il concetto dello 0-1, questo non avverrà nella realtà degli eventi, no? Non è che da un giorno all'altro si spegnerà tutto, sarà una progressiva evoluzione. Alla fine l'evoluzione di tutti i mercati non è mai un'evoluzione distruttiva. Senti, per quanto riguarda invece i futuri eventi, che cosa ti aspetti da parte degli organizzatori? Quali sono stati, tu prima hai citato insomma un sacco di contatti, ma quali sono stati i feedback, le reazioni da parte di questi, da parte degli organizzatori di fiere di eventi? Allora, devo dire che con la maggior parte di loro si è instaurato un bellissimo rapporto, anche perché ho ricevuto veramente tantissimi ringraziamenti, perché di fatto questa piattaforma crea una soluzione a un problema, che era il problema appunto del lockdown e dell'impossibilità di portare avanti un business. Pensiamo a delle agenzie che poggiavano il loro business solo su degli eventi reali. Ecco che oggi con una piattaforma digitale possono comunque mandare in scena degli eventi e quindi sostenere la propria azienda, se no avrebbero dovuto chiudere. Dall'altro punto di vista è chiaro che le prospettive sono anche di imparare a fare un lavoro nuovo. Appena finito adesso una call con un'agenzia, e chiaramente sono un po' impaurite, perché è tutto un lavoro nuovo per loro, ma noi siamo a loro supporto, quindi io penso che bisogna anche provare a fare questi nuovi eventi, provare a capire quali sono le complessità, le semplicità, eccetera. Noi che l'abbiamo già sperimentato sulla nostra pelle tramite l'azienda del nostro gruppo, che è Digital Events, devo dire che l'abbiamo trovato estremamente facile rispetto a organizzare un evento reale, tant'è che oggi stiamo già pensando di creare anche nuovi eventi, perché effettivamente ci sono grandissime opportunità. Senti, quanto tempo ci vuole per un'azienda per poter organizzare una partecipazione di media ad un evento digitale, cioè ad una fiera digitale? 3 ore. Dai, solo 3 ore? Eh sì, questo è bello. E devo dire che questo ci ha sorpreso anche a noi, perché di fatto la nostra piattaforma mette a disposizione un back-end molto facile, e gli espositori hanno capito subito che era facile personalizzare lo stand, mettere dentro il video, il foto, il testo, i PDF dei loro prodotti, eccetera. E quindi molti hanno dedicato queste 2-3 ore l'ultimo giorno. Però un po' di contenuti che devo recuperare, organizzarmi, scegliere, definire chi ci sarà, insomma, però un po' di tempo. L'azienda organizzata questi contenuti, insomma, ce li ha portata di mano, normalmente. Sì. Quindi, certo, poi se uno deve fare un workshop magari deve preparare la sua presentazione, quindi ci impiega un pochino più di tempo, però l'allestimento dello stand rispetto a un allestimento di uno stand reale Quanti di noi hanno passato giornate intere ad aspettare l'omino elettricista che gli collegasse la lampadina dello stand, piuttosto che, ecco, diciamo che questi stress non ci saranno più. In un ambiente digitale non esistono. Va bene, senti, allora ti ringraziamo Roberto per essere stati con noi. Era Roberto Silva Coronel, fondatore di Marketing Multimedia. Quando vedremo il prossimo evento? Ci puoi dare un aggiornamento? Ma allora, il prossimo evento è a brevissimo, diciamo siamo sui primi di luglio, e quindi potrete trovare tutto l'aggiornamento degli eventi che stiamo programmando sul nostro sito, che è appunto Live for Space. Ottimo, grazie ancora Roberto per essere stati con noi, e come sempre grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi durante questa puntata. Vi ricordo che il podcast lungo sarà pronto da lunedì mattina per il download. Noi ci vediamo domenica prossima alle 13.45 su Radio 24 per una nuova puntata di Radio Next, e come sempre il presente, il passato, ormai il futuro è già oggi. Grazie ancora e un saluto da Pepe Modena.